ci io verrò da te. Con il mio silenzio e tu forse capirai il mio dolore che c'è in fondo agli occhi miei. Il mio dolore che c'è in fondo agli occhi miei.